9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 21 di giugno. La trasmissione di oggi l'abbiamo concepita come un'ideale continuazione, una reazione anzi alla puntata di ieri, visto come gli ascoltatori sono intervenuti e non c'è stato tempo per ascoltarli. Ieri abbiamo dedicato la trasmissione all'analisi, alla interpretazione del dopo Pontida e alle prese di posizioni della leader della Lega, e tra queste di nuovo incentrata la polemica su Roma, assumendo i ministeri e la necessità di elevare i ministeri a Roma Capitale come simbolo del ritorno a uno degli slogan più tradizionali e che apparivano anche più superati della Lega in chiave di forza oramai di governo. Ma ecco riesplodere la polemica di fronte a questo, e siccome ieri abbiamo visto centinaia e centinaia di ascoltatori proprio su questo e anche leghisti del nord dire: ma in definitiva questa storia dei ministeri non la capiamo, ma che cosa significa levare i ministeri a Roma e portarli nel territorio, nel nord? Abbiamo deciso di dedicare un approfondimento per capire innanzitutto la reazione di chi ieri non avevamo qua e dice: questa è una richiesta inaccoglibile ed è sbagliata perché divide e perché è ingiustificata, e secondo di aprire i microfoni ancora una volta con voi perché esponiamo la vostra idea e vi confrontiate apertamente sulla questione. Ma davvero Roma è un simbolo da espropriare ancora? O piuttosto non bisogna capirlo una volta per tutte che la sua missione di capitale, il suo ruolo di capitale che gli è attribuito, significa anche oneri, significa compiti di rappresentanza, significa ogni giorno complicazioni rispetto a quello di qualunque altra grande città italiana alla quale è chiamata inevitabilmente per il ruolo di capitale che essa rappresenta? È ancora aperta questa specie di ferita della Roma preferita, per così dire, per questo suo ruolo? E ha ancora un senso concepire l'attacco a Roma come uno dei temi della vita nazionale a 150 anni dall'Unità d'Italia? Abbiamo pensato per questo di ospitare ospite unico di questa puntata il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che è qui con noi e che io ringrazio, e naturalmente io gli cedo la parola ricordando a voi tutti, lo trovate sui giornali, che proprio oggi ci sono degli ordini del giorno in Parlamento, il giorno in cui poi parla in Senato il Presidente del Consiglio sulla verifica, e anche qui bisognerà ascoltare come a propria volta registrerà i toni rispetto alle richieste della Lega. Ma negli ordini del giorno ci sono oggi in Parlamento un certo numero riguarda esattamente la risposta ferma, che è stata una risposta trasversale, che non è venuta solo dal sindaco di Roma Alemanno, dal presidente del Lazio Renata Polverini, ma anche dal presidente della provincia Zingaretti, quindi una risposta trasversale bipartisan, che dice naturalmente no, questa è una questione inaccoglibile. Ma evitiamo di dire sì o no in contrapposizione, chiediamo innanzitutto al sindaco di rispiegare ai nostri ascoltatori, in realtà, dovendo fare un bilancio di ciò che Roma prende, ciò che Roma dà per questo suo ruolo istituzionale di capitale, lei che è sindaco in questi anni difficili, qual è la sua opinione? Spieghiamo un pochino, ci si rimette per così dire, o comunque l'impegno è molto gravoso, oppure chi pensa come leghisti che vi avvantaggiate, lei si avvantaggi, la sua amministrazione si avvantaggia, i cittadini romani si avvantaggiano, ha qualche fondamento? Grazie signor sindaco di essere qua. Grazie, buongiorno a tutti. Premetto che sono dentro un campo nomadi che stiamo sgomberando, quindi è una situazione un po' disagiata anche dal punto di vista della trasmissione. La realtà è che verrebbe la tentazione di dire: prendetevi questi ministeri, perché dal punto di vista del dare e dell'avere non ci siamo proprio. Noi per sostenere le funzioni di Roma Capitale dobbiamo affrontare molti problemi, molti disagi e molti costi aggiuntivi. Pensiamo solo a tutte le manifestazioni che ogni giorno vengono fatte a Roma e che costituiscono un grande problema dal punto di vista del disagio e dal punto di vista anche di costi, di pulizie, di sistemazioni. Da questo punto di vista abbiamo dovuto chiedere anche un nuovo regolamento, chiediamo con forza un nuovo regolamento per limitare queste manifestazioni. Quindi in realtà una parte, solo una parte del debito accumulato dalle precedenti amministrazioni a Roma deriva da questo sbilancio tra il dare e l'avere. Però questo non toglie che Roma ha una missione, e questa missione è quella di essere capitale e di essere capitale che rappresenta l'unità dello Stato e l'unità della nazione. Quindi da questo punto di vista immaginare di prendere una funzione in Roma Capitale e portarla altrove è un costo in più, è una mancanza di efficienza, è la rottura di un simbolo che non si riscontra in nessuna parte d'Europa. Si parla di un compromesso, il compromesso riguarderebbe a questo punto solo gli uffici di rappresentanza. Io non capisco molto, questa è una mia opinione, però come si possa porre un tema così divisivo, così simbolico, e poi ridursi a una specie di via di fuga, uscita di servizio, perché gli uffici di rappresentanza non si negano a nessuno, ci sono tra l'altro già. Lei istituzionalmente è stato informato, il compromesso è stato raggiunto, è vero che quindi era una falsa richiesta? Allora, questa mattina ho raggiunto telefonicamente il presidente Cicchitto, che mi ha informato di questo ordine del giorno, è stato elaborato ieri sera fino alle 3 di notte fra i vertici del PDL e la Lega, e mi ha detto appunto che riguarda soltanto la possibilità di fare uffici di rappresentanza, garantendo in maniera, citando proprio la Costituzione, il ruolo di Roma Capitale e la sua unitarietà. Quindi la situazione dovrebbe essere accettabile, dovrebbe essere un discorso accettabile, però prima di dire che va tutto bene voglio leggere l'ordine del giorno, voglio farlo leggere ovviamente anche a Renata Polverini, che è Presidente della Regione, su cui siamo strettamente legati per affrontare questo problema, e poi voglio sapere se la Lega ritira la sua proposta di legge di iniziativa popolare, perché se nel mentre noi facciamo questo ordine del giorno che appunto autorizza questi uffici di rappresentanza, la Lega continua con la proposta di legge che vuole lo spostamento dei ministeri, è chiaro che c'è una cosa a cui noi dobbiamo reagire con la nostra petizione e con la nostra mobilitazione, perché altrimenti significherebbe quasi spostare in avanti il problema in attesa appunto che la Lega presenti questa proposta di legge, eccetera. Aggiungo questo, gli uffici di rappresentanza già esistono, quindi non sarebbe nessuna novità, già ci esistono uffici di rappresentanza dei vari ministeri in giro per l'Italia, quindi non sarebbe, diciamo così, una macchina indietro chiara e completa, però voglio sapere se è definitiva. Lei oggi rilascia un'intervista al Messaggero che in prima pagina la pubblica con un titolo: basta ricatti o meglio andare al voto. In sintesi estrema, l'impressione che ha avuto da iniziative come quella della proposta di raccolta di firme, della proposta di legge di iniziativa popolare a cui adesso faceva riferimento, da parte della Lega, sono espressione di una forza politica, adesso non voglio dire di ricatto, ma insomma di pressione sul governo e sul PDL che è in difficoltà, o invece sono espressione di una debolezza che a propria volta la Lega inizia ad avvertire nei risultati delle ultime amministrative? Beh, è evidente che è vera la seconda ipotesi. Innanzitutto c'è un punto che deve essere chiaro: noi abbiamo un patto elettorale che è diventato patto di governo, se si esce da quel patto si ridiscute tutto. Nel patto che è stato firmato per dare vita al governo Berlusconi non c'erano i ministeri, lo spostamento dei ministeri, c'era un'altra cosa, c'era il federalismo significa ridurre i ministeri, ridurre il peso burocratico dei ministeri, su questo io sono perfettamente d'accordo, ma non spostare i ministeri. Quindi il fatto che la Lega improvvisamente oltre la metà della legislatura viri e si ritiri fuori una vecchia proposta che era ampiamente accantonata dimostra chiaramente un forte disagio, che però secondo me, penso secondo tutti, non si risolve in questo modo. Abbiamo visto con chiarezza anche dal risultato elettorale di Milano che ai milanesi, ai lombardi o ai padani, come dicono loro, dei ministeri romani non gliene importa veramente nulla. Anche a Pontida, quando hanno parlato di riforma fiscale, quando hanno parlato di affrontare la crisi economica, anche quando hanno parlato di tirare le truppe dalla Libia, hanno avuto applausi e ovazioni. Quando hanno parlato dei ministeri, anche il popolo della Lega li ha guardati abbastanza perplesso. Io devo dire la verità che gli sms continuano, quelli che riceviamo al 349-238-6666, continuano a essere inequivocabilmente orientati alla polemica anche dura, energica nei confronti della proposta leghista, tipo, non lo so, ne leggo uno: gli uffici di rappresentanza, ma che cosa è diventata la Lega? Dimentica che noi del nord non siamo come quelli dell'Udeur di Mastella, noi non li vogliamo i ministeri, ma che non ce li portino affatto vicino a casa. Adesso, come vedete, i toni sono anche magari un po' naif, però insomma sono duri. Dopodiché c'è chi chiede, TG1 ieri sera ha parlato di rappresentanza operativa, che cosa significa? Io capisco solo che è una proposta bluff, un altro ascoltatore. Si chiede, ma è un costo in più, non serve a nulla. Un altro dice, ma cosa vogliamo fare? Come il Parlamento Europeo, che ha due sedi per le riunioni e dove ogni volta devono riempire i pacchi sugli aerei per portarli nell'altra sede e fare lo stesso anche per i ministeri. Insomma, quello che mi colpisce, perché come sapete noi non abbiamo pregiudizi nei confronti delle tesi del Nord o agitate dalla Lega quando si tratta di sviluppo territoriale, di economia e di imprese, è che questa volta è come se la Lega avesse un po' toppato, lo dico fuori dai denti, perché i messaggi che vengono, quelli che vi sto leggendo, sono per lo più espressione del Nord. Signor Sindaco, lei pensa che oggi come oggi la difesa alla fine del 150esimo, come l'ha voluto il Presidente della Repubblica Napolitano, c'era qualche dubbio all'inizio di queste celebrazioni, alla fine le celebrazioni hanno molto più unito gli italiani di prima ed è stato un dato di fatto, secondo me bisogna rendergliene merito, ma alla fine di questo, degli anniversari del 150esimo, così come l'ha vissuto anche lei, lei pensa che il ruolo di Roma in qualche misura nel dibattito nazionale, agli occhi del resto del paese, nel Nord, alla fine goda di qualche insomma macchia in meno per via anche del ruolo che è stato riscoperto nazionale patria, oppure in qualche misura c'è bisogno comunque sempre di un'operazione di manutenzione, perché Roma agli occhi degli italiani finisce per avere sempre più difetti di quelli che ha davvero? Allora, io credo che diciamo, l'operazione, se così si può definire, del 150esimo anniversario ha cambiato realmente il vento e la coscienza di tutti gli italiani, che si sono reinnamorati del tricolore e che sentono l'Italia non come un problema ma come una risorsa, la sentono come una risorsa per affrontare i problemi della globalizzazione, la sentono come una risorsa per aumentare la solidarietà e anche la voglia di vincere la crisi economica, quindi c'è stato un profondo ritrovarsi attorno al tricolore. Io mi ricordo anche i banchetti della Lega, insomma gli atteggiamenti della Lega offensivi nei confronti di queste manifestazioni sono state fischiate a Milano, a Torino, quindi da questo punto di vista il vento è cambiato anche nella coscienza dei cittadini. Se prima anche al nord si poteva pensare che l'Italia era un problema perché agganciava al sud, perché appesantiva, oggi francamente credo che a maggior ragione, lo era anche prima ma ha ragione adesso con più convinzione, la maggioranza degli italiani crede nell'Italia. Io sono profondamente contento di questo. Allora, signor Sindaco, so che adesso c'ha gli impegni del campo Rom lì, magari proviamo poi più tardi verso le 9:40 a ridisturbarla, intanto faccia il suo dovere e partiamo con le telefonate. Grazie a lei. Allora, cominciamo subito con Mauro, che chiama da Seregno. Sentiamo un po' come la pensa su questa questione dei ministeri nord, sud, Roma, se è ancora ladrona oppure se invece c'ha oneri tutti i giorni con le manifestazioni di tutti quanti che poi vanno a bloccare la città e i romani che rimangono paralizzati. Mauro da Seregno, che ne pensa? Padania Libera, così avete già capito come la penso. Ma siamo lì. Come sa, questa è una radio in cui spessissimo siamo aperti a tutto e si figuri se io non sono poi per il nord dal punto di vista produttivo. Ho dei dubbi sui ministeri, devo dire la verità. Beh, io invece al contrario, anzi, premessa, è la seconda volta che sono ospite della sua trasmissione. La prima volta c'era un magistrato in Pari di Torino che pretendeva, e in parte poi ci siamo riusciti, di legiferare al posto del nostro posto lettori, che demandiamo ai nostri eletti il compito di fare le leggi, in quel caso la legge sull'immigrazione. E anche oggi è un momento triste, secondo me, per me è una battaglia di retroguardia quella del SIG.Alemanno, proprio perché mi sembra in antitesi con tutto quello che succede nel mondo a livello non ipotetico di pensiero ma di fatti. Pensiamo in Inghilterra, hanno decentrato i ministeri, pensiamo a Sudafrica, fino a ieri tutti a decantare questo ruolo del Sudafrica come il modello principe, il post-apartheid, hanno quattro capitali, abbiamo la Germania che ha il ministeri suddivisi. Non capisco il problema, non è l'undicesimo comandamento, i ministeri devono essere a Roma. Poi sento il signor Alemanno che dice che questi ministeri sono un problema, che sono una parte del buco di miliardi e miliardi di euro che i suoi predecessori, ma lui è sulla buona strada, hanno scavato, buco che poi dovrà pagare chi? I lavoratori e le classi operaie sono del nord prevalentemente. Non capisco proprio il problema, i costi, spostare, fare un trasloco non mi pare un costo, piuttosto perché Roma con contrariamente a quello che dice Romano, deve avere tutti i vantaggi degli stipendi, della massa, dei volumi economici che vengono mossi da queste fabbriche, perché sono delle fabbriche, i ministeri, perché hanno tutto un indotto, il catering, le pulizie, la sorveglianza. Perché tutti questi vantaggi devono ricadere su Roma Capitale? Perché non distribuirli a Milano, a Venezia, a Torino, a Firenze, a Bari, a Napoli, a Palermo? Qual è il problema? Perché l'economia delle altre zone d'Italia deve rincorrere il mercato, invece il SIG punto alemanno pretende di avere questi vantaggi? Io non lo capisco. Se fosse vero che qualcuno di quelli che scrive è leghista e si dice contrario allo spostamento dei ministeri al nord come in altre zone d'Italia, per me è fuori strada. Mauro, posso fare una obiezione? Perché il più di coloro che ci scrivono e esprimono l'opinione critica hanno essenzialmente una preoccupazione, che non è quella di negare la fondatezza di molte delle sue osservazioni quando richiama il fatto che ci sono altri paesi al mondo, la Germania, il Sudafrica, che funzionano con modelli di dispersione territoriale dei centri apicali, ma che è invece radicata nella storia del nostro paese e che a mio giudizio ha un qualche fondamento. Qual è questa preoccupazione? Il fatto che in Italia tutte le volte che si tende a separare e a distribuire non si effettua mai questa operazione con una diminuzione del numero di addetti, ma la si prende come giustificazione, o meglio come scusa, per aumentarli ulteriormente. Quindi il giorno in cui ci mettiamo a ridistribuire assisteremo con ogni probabilità a un aumento totale degli addetti, che già sono un problema nel nostro paese, perché con tutto rispetto per il lavoro che svolgono sono tanti, sono 3.900.000 i dipendenti pubblici del nostro paese. Allora io capisco le considerazioni su, per così dire, l'economia parallela connessa alla concentrazione di dipendenti pubblici, sul sostegno alla domanda interna, sul fatto che sono meno esposti alle esportazioni, sono meno colpiti quindi dalla crisi del commercio mondiale e della manifattura, che infatti gli effetti maggiori di disoccupazione aggiuntiva sono tutti concentrati nella fascia pedemontana del nord e del nord-est, l'area più manifatturiera che esportava di più. Capisco tutto questo, però la preoccupazione di chi dice: se ci mettiamo a spostare i ministeri non facciamo altro che fare il bisti, come quando istituimmo le regioni senza attaccare minimamente i poteri e le piante organiche delle province al controllo di quello che era stato promesso, a me non sembra francamente così del tutto infondata. Sentiamo Gianni da Roma. Prego Gianni. Buongiorno Giannino, lei è un ottimo economista e ci ha descritto in maniera esauriente la stupidità dell'argomento. Mi ricorda tanto all'Italia con Malpensa e Roma. È una ripartizione di misere spoglie di un paese in declino che, siccome non è capace a crescere, si divide pochi ministeri da cattoni per poter sopravvivere. Questo è il concetto, ma non voglio parlare di questo. Bensì? Voglio parlare del signor sindaco Alemanno, che spero lei gli trasmetta la mia inquietudine. Io sono un elettore di destra. È inquieto perché, a suo giudizio? Perché il signor sindaco Alemanno, anziché di lavorare e fare l'impiegato a Roma da sindaco pagato da noi, lui pensa all'alta politica, pensa al Vaticano, pensa agli interessi generali. Lui invece è un amministratore di Roma e la sicurezza, la pulizia e la viabilità non gliene frega niente. Lei dice addirittura, io questo non lo so perché ovviamente non... No, io lo so, io vivo a Roma, lo so, però... Se lei venisse a Roma e camminasse per Roma avrebbe prostituzione, accattoni ad ogni crocicchio, lavavetri con le ordinanze che ha fatto, che non servono a niente, cioè Roma in uno stato di sfacelo. Dica al signor sindaco che noi abbiamo bisogno di un amministratore, non di alta politica. Va se bene. Lui vuole fare alta politica, lasci stare il posto di lavoro da sindaco. Riferiremo al sindaco che in questo momento appunto è impegnato sul campo Rom. È un po' inevitabile, Gianni, anche se non faccio la difesa d'ufficio del sindaco, che il sindaco di Roma alla fine svolga sempre un ruolo politico nella politica nazionale. Se pensiamo ai sindaci che ci sono stati, non a caso Rutelli, Veltroni, proprio per il peso simbolico ma in realtà operativo rilevante che finisce per avere Roma nel gioco politico istituzionale nazionale, quindi capita così. Vi do alcuni campioni delle tantissime raffiche di messaggi che giungono al 349 238 6666. C'è chi dice: leghisti traditori del popolo e servi del miliardario, quindi una parte di ascoltatori ultraleghisti che critica la Lega perché è troppo condiscendente con Berlusconi. C'è chi dice: secondo me non ha un senso pratico spostare i ministeri, mi sembra un artificio per dimostrare di fare qualcosa, visto che sui problemi più concreti non si è incisivi e sia un problema quindi di credibilità nel sostegno al governo. Altri che sostengono, secondo lei, dottor Giannino, che direbbe Moody sui ministeri al nord, visto che ora mette il naso nelle nostre amministrazioni locali. qui in Veneto, dice un altro, si vuole l'indipendenza, abbiamo le scatole piene, non bastano certo i ministeri. C'è chi invece poi condivide la tesi esposta dal nostro ascoltatore romano, e dice bene per il traffico di Roma, ormai non si circola più se qualche ministero viene spostato. Insomma, devo ammettere, le tesi sono molte, non c'è oggi quel senso di unitarietà che ieri era più forte, secondo me, nelle reazioni, che mi aveva fatto credere con una certa forza, davvero, che la Lega avesse un po' sbagliato, un po' come quando a Milano tra il primo e il secondo turno, per tentare di risalire nelle posizioni evidentemente un po' compromesse dopo il primo turno, il centrodestra ha promesso ai milanesi che per vincere avrebbe levato le multe, e devo dire la reazione moderata della città è stata: ma per chi ci avete preso? Comunque sentiamo ancora telefonate e come la pensate voi direttamente. Luigi che chiama da Pisa, prego Luigi. Buongiorno, io sono Luigi Salzano, presidente dell'Italia Vera, un movimento nato da poco tempo per disfarci di questa gente che non sopportiamo più, che ogni volta toglie il focus dai problemi veri degli italiani su cose che servono solo a se stessi. La Lega Nord ha tradito da 25 anni a questa parte i suoi elettori, promettendo di togliere le province come ben lei sa. L'ha tradito questa cosa perché sono postifici che ora si sono creati anche per la Lega Nord. Ora vuole altri postifici per superare la sua crisi interna, perché quando un capo di un partito elegge il figlio suo prossimo esecutore di questo movimento, vuol dire che ha già tradito il suo popolo. Cosa aspettano i cittadini del Nord a dire basta a una Lega che non serve più agli obiettivi che aveva creato all'inizio? Grazie, grazie Luigi. Sentiamo Fabrizio che chiama da Milano invece, prego. Sì, buongiorno, mi chiamo Fabrizio. Senta, no, intanto volevo dire all'ascoltatore precedente di pensare insomma al suo partito, esatto. e a cosa ha tradito il suo partito, eccetera. No, io sono un leghista sinceramente abbastanza triste, perché in effetti il problema non è certamente la questione dei ministeri. Noi abbiamo la riforma fiscale, abbiamo il problema dei profughi, abbiamo il problema comunque del lavoro per i giovani. Insomma, qui c'è un problema di fondo: il tempo passa. Il tempo passa e noi stiamo perdendo tempo. Berlusconi sta perdendo tempo, si chiacchiera fino alle 3 del mattino di questioni assolutamente inutili. Poi si arriverà al 2013, alle consultazioni elettorali, e poi si piange. Cioè, il mio diciamo messaggio è: bisogna iniziare, non so neanche se ci sarà più tempo per poterlo fare, a attivarsi per questioni concrete. Cioè la gente del Nord, vuol dire, vuole concretezza. Io mi rendo conto che non è facile scardinare un meccanismo che c'è da 150 anni, portare dire, al Nord quella ventata comunque di federalismo e comunque di cercare di incentivare anche quelli che sono gli interessi del Nord, o comunque senza ovviamente togliere nulla al Sud, ma credo che anche la gente del Nord abbia diritto a che le proprie risposte, una risposta alle proprie domande. Però io dico, stiamo perdendo tempo e probabilmente la pagheremo cara, semplicemente questo. Grazie e buona giornata. Ho l'impressione netta che Fabrizio da Milano ci aiuti a fare un passo nella direzione che io condivido, almeno. Io non sono titolare di alcun diritto di discriminare la presunta verità da quella che non è verità. La polemica politica è pane quotidiano, perché i temi identitari sono quelli su cui si costruisce, si forgia il radicamento di una forza politica popolare come è la Lega negli anni, e l'attacco a Roma lo è sempre stato costitutivamente, e ha incrociato storicamente uno dei grandi punti di fondo e di debolezza dell'unità italiana. Questo è inevitabile riconoscerlo. Temo che quando si riduce ai ministeri, anche secondo me, come Fabrizio da Milano, rispetto alla gravità, alla rilevanza dell'agenda, delle priorità nazionali e di ciò che bisognerebbe davvero mettere in moto per diminuire la spesa pubblica, per diminuire la pressione fiscale, per dare, come dice Luca Ricolfi, per dire per esempio chiara una cosa, che per fare più crescita bisogna concentrare quel poco che si può fare, per esempio, da meno tasse alle imprese. Alle imprese e al lavoro insieme, cioè ai fattori della produzione che sono i più colpiti, e a loro che bisogna levare punti di PIL di pressione fiscale, ai lavoratori e alle imprese insieme. E per farlo bisognerebbe impugnare l'accetta, altro che moltiplicarli i ministeri o disperderli sul territorio. Ha ragione chi, come Roberto da Crema, mi dice: però se fai un'informazione corretta ed equilibrata dovresti anche ricordare che a Pontida è stato chiesto non solo di portarli a Nord, ma di distribuire i ministeri in tutta Italia, cioè un segno di decentramento anche al Sud. sicuramente è vero, quindi lungi da me volerne fare una questione di puro revanchismo del nord contro Roma, anche se però, come si vede nel dibattito, è diventato inevitabilmente quella la proposta. Ed è davvero una proposta vera o è pura fuffa per attirare attenzione? Che ne pensa per esempio Andrea, che ci chiama dalla provincia di Udine? Prego Andrea. Buongiorno a tutti. Dunque, chiamo dalla provincia di Udine, quindi sono orgogliosamente friulano. Leggevo ieri sul Corriere Economia anche il servizio sui dipendenti regionali e sulla diversità in numero tra i dipendenti siciliani e i dipendenti delle regioni del nord, e sono tutte cose che fanno rabbrividire quasi quasi. Però, in un momento dove al di là delle agenzie che ci accendono le spie rosse di pericolo, in un momento, dicevo, dove dobbiamo tutti risparmiare, cosa fa il governo per tenere in piedi degli equilibri? Decide di aprire degli uffici di rappresentanza. Che cosa sono gli uffici di rappresentanza se non una moltiplicazione delle spese? O mi sposti il ministero, ma qui secondo me non sono granché d'accordo, oppure mi apri, oppure non fai niente, ma non raddoppiare degli uffici semplicemente per mantenere in piedi un equilibrio tra Bossi e Berlusconi, semplificando. Molto chiaro. Dobbiamo fare sacrifici, siamo tutti chiamati a fare enormi sacrifici, per primo l'esempio ce lo deve dare il governo, assolutamente il governo. Grazie. Sono le 24 ore di oggi, lo ricordo a tutti, lo trovate in prima pagina, cifra in 33.000. 33.000 sarebbe questo il numero dei dipendenti ministeriali che sulla carta si trasferirebbero dal centro e dal sud al nord se le ambizioni leghiste sui dicasteri si concretizzassero. E questo numero totale si riferisce all'ipotesi teorica di un trasferimento degli interni, dell'economia, del lavoro e dello sviluppo economico. Trovate su Sole 24 Ore, poi approfondite queste ipotesi. Angelo, che ci chiama da Roma, come la pensa? Ma buongiorno, io penso che la questione sia, vabbè, a parte che è una delle classiche boutade della Lega, che però poi purtroppo ci ha insegnato che queste boutade hanno un fondo di concretezza, quindi poi dopo purtroppo diventano un problema. Però io volevo fare un altro tipo di osservazione: molti ministri e sottosegretari sono anche parlamentari o senatori e quindi sono impegnati anche nell'attività parlamentare. Allora, mettere un ministero in Lombardia nel momento in cui ci dovesse essere una riunione parlamentare, poi che cosa facciamo? Lo spariamo con un razzo su Roma se deve partecipare ad una votazione? Cioè, come conciliamo le due attività? Un'esperienza in Italia di questo tipo già c'è ed è in Calabria, perché quando ci furono i famosi moti di Ciccio Franco perché per spostare il consiglio, cioè l'attività politica da Reggio Calabria a Catanzaro, per mettere diciamo in qualche modo a posto cosa, si decise di fare la giunta, quindi l'attività esecutiva a Catanzaro e il consiglio a Reggio Calabria. Questo non ha aumentato la produttività, ma ha aumentato i costi chiaramente, perché ora ci sono i rimborsi per gli spostamenti, perché cioè ha creato tutta una serie di problematiche che sono tecniche ma che poi diventano di fatto anche politiche. Ottimo l'esempio richiamato della rivolta di Reggio Calabria nel 1970, quando ci fu lo slogan, nacque lo slogan del boia chi molla, e dei costi che poi hanno rappresentato le conseguenze di quel modello, e lo troviamo rappresentato anche nella duplicazione, ripeto, delle sedi del Parlamento Europeo. Ci sono da sempre fior di studi a proposito dell'inefficienza di quel meccanismo. Devo dire che devo riconoscere però che molti la pensano in una maniera molto più complessa di quanto il semplice appello, slogan, chiamatelo come volete, rilanciato da Pontida lasciasse immaginare. Che significa in effetti, per esempio, che davvero la celebrazione del 150esimo ha rappresentato, si vede in moltissimi messaggi, qualche cosa che ha fatto riflettere moltissimi italiani e che ha, devo renderne atto al Presidente della Repubblica, io ero tra i critici all'inizio delle celebrazioni, mi sembrava che non ci fosse molto non fosse mosso il caso di pensare a celebrazioni così complesse. Ero tra quelli che erano favorevoli a lavorare. Ricordate quando ci fu la polemica anche con Confindustria, che ha tentato di proporre una maniera di celebrare il 150esimo dicendo lavoriamo nelle imprese, dedichiamo mezz'ora. Però io devo riconoscere, si vede in moltissimi messaggi, che quello che ci diceva prima il sindaco Gianni Alemanno è vero, perché molti di voi dicono ma ancora non ci siamo resi conto, dopo un anno intero in cui per fortuna abbiamo levato la polvere dall'unità nazionale, abbiamo riscoperto l'orgoglio, che cosa ha significato il sacrificio di una generazione di giovani che per tanti anni è andata avendo poco ma magari a combattere per l'indipendenza patria e è riuscita a costruirla. È possibile mai che ancora siamo a questo tipo di polemiche? E questa cosa mi colpisce, perché in effetti vuol dire che si è meno propensi di prima a soffermarsi sulla pura superficie della polemica politica, come pure abbiamo visto anche oggi in questa puntata. Questa cosa dei ministeri è inevitabilmente nata così, più che una questione concreta. Nessuno avrebbe saputo dire in concreto quali ministeri davvero dovevano muoversi, come, perché, da che giorno. Ecco, Gianni Alemanno è tornato con noi. Possiamo chiedere innanzitutto il campo Roma, dov'è a Roma e come stanno le cose, per fare un po' di cronaca quotidiana? Ma cos'era, un'emergenza improvvisa? No, è un contrario, è un campo nomadi tollerato che si ha da 20 anni, di circa 100-150 persone. Stava via Marchetti, una zona dell'Alitalia che creava grossi problemi a tutti i cittadini della zona e anche ai lavoratori dell'Alitalia, che finalmente siamo riusciti a sgomberare. Adesso le ruspe stanno buttando via queste baracche abusive, molto pericolose anche per le persone che vivono dentro, e i nostri assistenti sociali stanno dando un'assistenza ai bambini e alle donne per aiutare i soggetti fragili. Quindi chiudiamo un'altra di questi campi tollerati che a Roma esistevano da anni e anni, che non si trovava una soluzione. È andato tutto bene, non ci sono problemi. Senta, alcuni ascoltatori hanno chiamato anche da Roma mentre lei era impegnato nel suo compito istituzionale, dicendo erano elettori dichiarati del centrodestra che le dicevano qui il problema è che noi rischiamo, però di fronte agli enormi problemi quotidiani della città, la pulizia, la sicurezza, i nomi e così via, di non essere impari rispetto alla sfida, perché Roma ha tanti di quei problemi ereditati, tanti di quei guai quotidiani, tante di quelle polemiche che scoppiano, che è molto complicato, per così dire, essere all'altezza di una città come questa, a maggior ragione quando poi c'è la polemica nazionale, qualcuno che è sempre pronto a rilanciarla, a mettere il bastone tra le ruote e a dire l'eterna Roma che approfitta. Dovesse dare un bilancio, l'impressione dopo un po' che guida l'amministrazione della città, rispetto al complesso dei problemi della capitale che si è trovato a ereditare, i passi avanti che è riuscito a fare e il bilancio con la cittadina, ma anche con l'opinione pubblica nazionale. Insomma, è vero quello che dicevano alcuni ascoltatori, è un po' un problemaccio fare il sindaco di quella città? Beh, sicuramente è uno dei compiti più difficili che esistono non solo in Italia ma credo anche in Europa, però io credo che abbiamo messo le cose sul verso giusto, nel senso che abbiamo risanato un debito di circa quasi 12 miliardi che era stato accumulato dalle amministrazioni precedenti anche a causa di quegli squilibri finanziari di cui parlavo prima, e questo risanamento significa che oggi Roma non è più a rischio default, non è più una condizione di campare la giornata. Poi abbiamo cominciato a lavorare sui poteri della governance della città, quindi poter fare delle scelte rapide senza troppa burocrazia. Abbiamo fatto un piano di sviluppo, un piano strategico di sviluppo che fa sì che tutte le opere pubbliche abbiano un disegno complessivo, che non siano buttate a caso sulla città, e abbiamo cominciato a lavorare pesantemente perché ci sono tantissimi progetti che stanno atterrando, che si stanno realizzando. Quindi abbiamo cominciato a lavorare in una direzione giusta e sistematica, non casuale. Chiaramente ci vuole molto lavoro da questo punto di vista per sistemare tutte queste realtà. Roma è una città obiettivamente complessa, cresciuta male per decine di anni, per cui da questo punto di vista ci vorrà molto lavoro. Però oggi secondo me siamo sulla strada giusta, perché non stiamo tamponando l'emergenza, abbiamo attuato un piano complessivo che va alla radice del male e dei mali di Roma, va alla radice di questa grande disorganizzazione della nostra città. Quindi Roma anno dopo anno migliorerà sempre di più. In chiusura una considerazione politica le chiedo, perché alcuni ascoltatori dicevano a Roma è sempre complicato perché il sindaco finisce per avere un ruolo politico nazionale, poi l'impressione che sia in città e che finisca così un po' per trascurare o dedicare un po' meno tempo per quello che dedica la politica nazionale rispetto ai problemi dell'amministrazione. Però è inevitabile, questa è stata la mia risposta, che proprio chi è sindaco di Roma, questo vale per gli esponenti del centrodestra come nel suo caso, ma per gli esponenti del centrosinistra prima, abbia una caratura politica nazionale. E pensando a come è andato al doppio turno delle amministrative e poi nei referendum, il centrodestra, nelle parole che oggi il Presidente del Consiglio pronuncerà al Senato per la verifica, le chiedo inevitabilmente, l'accentuazione nel futuro, per come si sta articolando il PDL nel centrodestra, il rapporto tra PDL e la Lega, l'accentuazione anche di basi di espressioni territoriali di leadership, no? Come si vede da una parte, per esempio, nel ruolo di Formigoni, il presidente della regione Lombardia, come si è visto in questi giorni nella decisione, nella rapidità con cui lei, il sindaco di Roma, e il presidente della regione Lazio, Renata Polverini, avete reagito alle proposte e alle provocazioni della Lega. C'è un'accentuazione della base territoriale della leadership del centrodestra come via di sviluppo del post Berlusconi o comunque di questo passaggio complicato dopo i 17 anni della leadership di Berlusconi, secondo lei? Faccio una premessa, io mi occupo per buona parte del mio tempo alle questioni territoriali, adesso stavo non a caso una giornata come questa, stavo a coordinare lo sgombro di un campo nomadi abusivo, adesso sto andando in prefettura a firmare un protocollo del prefetto per evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata a Roma, quindi mi occupo di Roma, è chiaro che mettere a posto una strada o sistemare un problema nomadi fa meno notizia di una politica come con la Lega, quindi invito tutti i cittadini e ascoltatori di non farsi in qualche modo condizionare da quelle che sono dall'apparenza e da ciò che noi come giornalisti facciamo apparire a discapito di quello che lo fa tutti i giorni. Esatto. Detto questo, è chiaro che nel PDL, dopo diciamo così, gli insuccessi ci sono stati sia nelle amministrative di Milano e Napoli, sia nella situazione referendaria, che non è proprio un insuccesso, ma è una situazione che è andata contro le indicazioni del governo. Io credo che sia necessario riancorare il partito al territorio con forme di rappresentanza che siano diffuse, quindi valorizzare la presenza territoriale, questo è giusto, ma non è il solo canale, poi bisogna lavorare sullo strumento delle primarie, che è uno strumento estremamente importante per ricollegare l'eletto con l'elettore, per far scegliere l'elettore chi è il candidato, eccetera. Rilanciare il partito con congressi, quindi bisogna mettere in moto tutte le iniziative che riagganciano il PDL e il centrodestra al territorio, evitare che la gente ci veda chiusi nel palazzo, bisogna stare in mezzo alla gente, bisogna testimoniare in tutti i modi e ovviamente sindaci, presidenti di regione, amministratori locali sono quelli che lo possono fare in prima fila, ma non solo loro, lo devono fare tutti. Allora, su queste parole noi salutiamo e ringraziamo il sindaco di Roma per aver costituito oggi una specie di ideale risponditore rispetto agli attacchi che avevamo portato a Roma ieri. Grazie al sindaco per il tempo che ci ha dedicato e devo dire scusate tutti gli amministratori che a noi quali noi chiediamo inevitabilmente poi di darci il loro tempo per parlare di politica nazionale, in effetti è come se contribuissimo all'idea di metterli anche in cattiva luce di fronte ai loro elettori, di qualunque colore politico siano, qualunque sia il loro ambito di responsabilità. Mi pare di capire che tra ieri e oggi abbiamo fatto una sintesi del tutto personale della versione di Oscar di questo Pontida di quest'anno. Il Pontida di quest'anno registra una difficoltà oggettiva nel rapporto tra Lega e PDL, ma nel merito, nelle proposte, a me pare che i critici e i perplessi superino di gran lunga, almeno da questo osservatorio, dagli sms, dalle telefonate, coloro che dicono sono venute fuori chissà quali grandi proposte. C'è un'evidente corrosione di un rapporto politico, ma la difficoltà nel rapporto col proprio elettorato non so se sicuri con proposte come queste. Credo che articolare quali punti di PIL per meno spesa e meno tasse, tanto per tornare al mio tema tradizionale, sarebbe molto più utile. Avete capito che stanno alzando la musica, come dire piantala, e allora io continuo a parlare per protesta, perché non mi faccio tacitare da questa gestione autoritaria della radio. Comunque, come avete capito, ce n'è ancora per poco di Giannino, perché d'ora in poi alzeranno la musica e io non sarò più a questi microfoni. E chissà, rimpiangerete che qualcuno vi abbia detto basta con questo Stato ladro. E ci vediamo domani, Linea Giornale Radio.